Televisione realmente trasformata in un'illusione, essendo assorbiti da un sistema malato in cui il loro stato è imprigionato. Ma se qualcuno bussa alla porta di casa e tenta di destarli dal torpore, il tentativo è vano, ecco la porta in faccia, continua un'esistenza che non lascia traccia. Oh, guarda più in là di una spanna, svegliando il cervello da luoghi comuni, è una sopravvivenza basata su niente, su niente. Sinusoidale, casa, lavoro, meglio funerale. Consumi il tuo tempo con la pay TV, il resto delle ore con reality, sperando che un giorno qualcosa cambi, bene o male, ma però che cambi. Che qualcuno bussa alla porta di casa, offrendoti un antidoto a una vita malata. Grazie, non mi interessa, dai, c'è la partita, che vita è un ricoperta, questa è la mia vita. E allora guarda più in là di una spanna, svegliando il cervello da luoghi comuni, è una sopravvivenza basata su niente, sul niente. È sul niente.